Tornate, non siamo solamente noi, ma abbiamo delle ospiti in studio. Sono il collettivo Girls Gone Wild che è venuto qua. Sono venute qua per presentarci una serata she out con musica, cantautrici, DJ e quant'altro. Ma lascio la parola a loro per farci raccontare che cos'è questa serata e questo progetto. Ciao a tutti, il progetto nasce da una necessità nella città di Roma di creare una serata che fosse divertente, che fosse per donne, quindi una serata lesbo, ma che non fosse ghettizzata o ghettizzante e con un'attenzione particolare a tutta una parte underground e di cantautrici romane, anche di possibilità per esporre di artisti. Abbiamo avuto collaborazioni anche con persone che hanno organizzato dei mercatini. E comunque un luogo, un incontro che fosse divertente ma non superficiale. Quindi sì, un incontro di genere per lesbiche, ma non chiuso, quindi aperto a tutti quanti, agli amici, e che desse la possibilità a tutti quanti di esprimere anche proprio questa cultura underground romana, non fermandosi a artiste romane. A 360 gradi vedo anche voi, no? Con tutte le arti e quello che ci può essere, dal mercatino a... Assolutamente, abbiamo avuto anche una ragazza che ha fatto per noi tantissime tortine a forma di tette che abbiamo dato a chi entrava nelle nostre serate. Abbiamo avuto anche artiste che hanno esposto i loro quadri, le loro foto, e però comunque all'insegna del divertimento e del conoscerci in un ambiente che sia il più piacevole possibile. Bene, e con noi, vabbè, a parte la presentazione di questa serata, non so se volete dare proprio, dire specificamente quello che ci sarà sabato 14 aprile, per così dare un'idea. Sì, sabato 14 aprile siamo al Radio Caffè, che è a Via Principe Umberto 67. La serata inizierà intorno alle 22, 23, 22:30. Ci sarà come DJ Fred Montgomery, piccolino, che fa parte anche del nostro collettivo, e Ilaria Mystic. Inoltre avremo sul palco Diana Teixeira, che è Teixeira, che qui. abbiamo qui, che non abbiamo solamente lei perché ci sta anche la DJ Mystic, no? E quindi no. DJ Fred. Fred. Ah, ok, vedi, già mi sono confusa con i nomi. Mentre abbiamo anche Diana Teixeira che sta con la chitarra e magari ci fa sentire qualcosa. Ti presenti così? Ok. Estoy en Berlín y me ha vuelto tu oscuridad de golpe y casi no te puedo ver. La misma oscuridad que me pidió verte entonces ahora escuece. En verdad nunca te creí capaz de alguna cosa, estando yo tan cerca, tan, tan cerca. Siento que me has hecho trampa y creo que ya no eres lo que yo anhelo. Creo que ya no te deseo ni en mis sueños, ni que me toques como si se te fueran las tripas en ello. Ya no quieren ir a verte ni mis huesos. Ilusión me ha venido a ver. Adiós a ti y a tu mentira. Desilusión me ha venido a ver. Desilusión me ha venido a ver. Adiós a ti y a tu mentira. Pura desilusión. Se vuelve a construir, aunque los tornados lo destrocen. sé sobrevivir y si no aprendo, pero sin amargura lo hago para aprender a encontrar la felicidad más pura. Ni estoy loca ni lo estuve, creo que ya no te deseo ni en mis sueños, ni que me toque como si se te fueran las tripas, en ello ya no quieren ir a verte ni mis huesos. Desilusión me ha venido a ver, adiós a ti y a tu mentira. Desilusión me ha venido a ver, desilusión me ha venido a ver, adiós a ti y a tu mentira. Desilusión me ha venido a ver, desilusión me ha venido a ver, adiós a ti y a tu mentira. Desilusión me ha venido a ver, desilusión me ha venido a ver, adiós a ti y a tu mentira, pura desilusión. Era Diana Tejera che ha cantato Esquece. E ci vuoi dire qualcosa appunto di te? Beh, io vorrei dire che non canto solo in spagnolo, questa è una canzone appunto che in realtà è di Bebe. Così io il mio progetto che anzi nella serata di sabato vedrà delle canzoni anche inedite alle quali tengo moltissimo, che sono tra l'altro scritte con una grandissima poetessa che è Patrizia Cavalli, e quindi questo è quanto. Sì, è un progetto che uscirà appunto a maggio il nuovo singolo e poi dopo settembre il disco. Ho un sacco di motivi per andare a questa serata. Vabbè, te la facciamo fare dopo, dai, facciamo un altro giro di presentazioni. Volete raccontare qualcos'altro di questo progetto, di questa serata? Allora, sì, Shout cambia locale, abbiamo iniziato da due anni, e partendo da spazi un po' piccolini, poi fino ad arrivare appunto a locali di media grandezza come il Radio Caffè. Comunque itinerante, non abbiamo ancora trovato un posto, una casa, ma siamo felici anche di questo, perché poi le persone, Roma è grande, quindi se organizziamo una serata al Pigneto c'è chi viene da Roma Nord e ci dice no vabbè ma è distante, allora cerchiamo di accontentare tutti, per il locale, per la musica, per tutto quanto. E facciamo un altro pezzo di chiusura, così salutiamo in bellezza le Girls Got Wild, che sono venute a presentarci la serata She Out. Diana Tejera. Ok, aspetta, a questo punto che facciamo? Facciamo la mia robiera, che è una, questa è una poesia in realtà che ha scritto appunto Patrizia Cavalli. Non è un inedito, volete un inedito? Se no, no vabbè, questa è però molto carina, lei le piace molto perché dice che è un po' brechtiana, perché lei ha scritto questo testo un po' drammatico, io ho messo questa musica un po' hawaiana. Il cielo anche oggi è azzurro, ma poi si sporca per le nuvole nascoste dietro i palazzi più alti delle mie finestre. Luce che si muove, muove ombre, vuoto lentamente attraversato da pigre ombre, lo stanco repertorio dei miei nervi insiste in repliche che io più non guardo, che non ascolto, non durano abbastanza da tenerne conto, ma intatta ancora regna in me fisiologia e mi costringe al sogno, guarigione, regalo di endorfine da te, la mia robiera, non in regalo, anzi te le pago 100 volte il loro prezzo, tutto si compra, io perché non posso. Questo mondo fatto di rimedi, perché io il mio rimedio non lo tengo, perché volere te come rimedio. Perché se le tue labbra si dischiudono, quando distesa ti decidi al bene, e a consonanti doppie dici amore, non più alteramente casta, ma tutta sorta a bere il mio fervore, perché allora il mio sangue si dispone così armonioso e liscio nelle vene, e porta il miele all'orfana la testa, ma intatta ancora regna in me fisiologia, e mi costringe al sogno guarigione, regalo di endorfine da te la mia robiera, non in regalo anzi te le pago 100 volte il loro prezzo, tutto si compra io perché non posso. Bene, la degna conclusione è un applauso e di Anna Tejera. Le Girls Gone Wild hanno presentato la serata She Out il 14 aprile a partire dalle 22 a Radio Caffè a Via Principe Umberto 67.